Ehi, ti piace la musica rap? Sì, mi piace. Ti piace? Ora voltati lentamente, sono del club amanti del rap. Prendi la pistola e buttala via. Buttala via, se ti piace il rap, sorridi a tutta bocca. Sorridi a tutta bocca. Sto sorridendo. Sorridi a tutta bocca. Sì, a tutta bocca. Facciamo sì. un rap insieme. Yo baby, yo baby, yo, yo, yo baby, yo baby, yo baby, yo. Il gioco delle rime che ci rende esausti e che non rimborsa i fasti e che evita l'astio, il muso e la sfida. Sotto la folla che grida, l'ho vissuta da suicida. Già ho fatto due battole fuori alla prima e per come sono fatto ci ho tracciato una sigla. Già non sono il primo né l'ultimo di cui si insinua che se non sfonda non è per sfiga. Autoprodotto all'antica, passa parola, poi passo qualche copia alla tua amica. Sai, sono la troia della chat e ti spalmo di spam e ti schiaffo un colpo basso. XXX dalle quattro mura, altri quattro con facce da sepoltura. Com'è che più una paura, più dice no, più mi si censura, più dirò quello che vorrò. Questo è il gioco delle rime, tu ti gioco un colpo basso, scasso, tipo mazzo, spacco e tabasso. E di sicuro non ti basterebbe un asso per fare questa roba, potrei metterti all'ingrasso. Questo è il gioco delle rime, che di gioco non ho un cazzo. Pazzo, sono pazzo, pazzo, sei un pazzo. E di sicuro non ti serve farti il mazzo, perché con questa roba non ti comprerai un palazzo. Suoni pesi tipo Beto di Ferrara nel Sahara, che ti mando via col vento manco la Rossello Ara. Vuoi far gara, garanzia, t'ho doppiata al primo giro, perché il flow di un altro mondo, merda che conserva in filo. Questo è il gioco delle rime, puto al gioco dei miei suoni, spacco coni delle casse, i miei vicini testimoni. In questo mondo di cloni sono una pecora strisce, quelle nere fanno rap per loro per chi le capisce. Mentre io con tradizione umana seguo ciò che attira, sento punk, suono gang, vado in giro con Pashmira. Gira che ti rigira, come girando le parole al vento quando ascolto ciò che sento, faccio un complimento e metto che livello è degno. Guarda bene quanto disti, non riesci. Dai riprova, non riesci. Forza insisti. Radio con la triple X fa paura da Twin Peaks. Se si spinge dallo sconosciuto a passa DJ Trick. Questo è il gioco delle rime, io ti gioco un colpo basso, scasso, tipo mazzo, spacco e tabasso. E di sicuro non ti basterebbe un asso per fare questa roba, potrei metterti all'ingrasso. Questo è il gioco delle rime, che di gioco non ho un cazzo. Pazzo, sono pazzo, pazzo, sei un pazzo. E di sicuro non ti serve farti il mazzo, perché con questa roba non ti comprerai un palazzo. Gioco con le rime, drogo signorine, con nano e con vite. Sto a tre metri sopra il cielo, puro come il legno. Se non hai capito te lo disegno. Di zero, due scimmie e un esercito. In più allo sbattimento sono allergico. In più certe persone le dimentico. E in TV il fake vote l'autentico. A te dico con ansia, resisto quale sia la risposta alla mia domanda. Che ha potere le regole le cambia. Sa di valere, fa bene a lasciare l'Italia. La gente fa il cazzo che le pare. Pare non se ne fa e non ci sta a pareggiare. Al mare non ci vado e sono bianco. A fare il figo in palestra manco. Questo è il gioco delle rime, io ti gioco un colpo basso, scasso, tipo mazzo, spacco e tabasso. E di sicuro non ti basterebbe un asso per fare questa roba, potrei metterti all'ingrasso. Questo è il gioco delle rime, che di gioco non ho un cazzo. Pazzo, sono pazzo, pazzo, sei un pazzo. E di sicuro non ti serve farti il mazzo, perché con questa roba non ti comprerai un palazzo.